fischio più. Io fischia, se è di piatto. Marco, ci sei. Marco, condom. Mario, ci sei. Chi è avanti? Avanti il fischio, chi è? Chi è avanti? Buonasera, ora. Tutto sparato, sì, ben amplificato. E non è chiara chiara al radio, perché l'ha troppo amplificato, capito? Avanti. Sì, Santiago 7, Radio 5. Santiago 7, Radio 5. Va benissimo la radio, adesso va benissimo. Non si avvicina molto, sennò è troppo grossa la voce. E non si capisce bene, capito? E non mi faccio trattenere, che sto facendo qualcosa qua, per cui se ho sentito sono voluto entrare per darti il controllo. E purtroppo non mi posso trattenere, dai, ci sento magari più tardi quando finisco. Senti, sì, ok, ora. Buon proseguimento di serata, dai. Rimanghi l'ascolto, ma sto facendo cosa? Aspetta, Bacchisio, Bacchisio, Bacchi. Aspetta, c'è Bacchisio. Bacchi, ti sento io, avanti. Aspetta, Bacchisio. Bacchisio, ma non mi senti? Ah, in campagna sei, Bacchi. Oh, Bacchi. Ma sei basso, Bacchi, come mai? Ma non mi senti? Ma io ti sento, Bacchi, sei tu che lo senti a me. Io ti sento basso, però non riesci a arrivare qua. Ma evidentemente c'è poca ricezione con l'apparecchio, Bacchi. Evidentemente c'è poca ricezione, perché io ti sento bene qua. Qualcosa si può fare. Senz'altro dipende dall'antenna, Bacchi. Evidentemente l'antenna è troppo piccola e non va bene. Infatti adesso arrivi più bene anche pure, dai. Adesso ti sento bene io. Non ho sentito nemmeno io, ma Marino, per niente. Si è acceso dalle 4 qua, ma non l'ho sentito per niente. Evidentemente non l'ho acceso. Sarà sotto all'albero con la zappa in mano, Bacchi. Come sempre, tutte le volte che passo lo trovo sotto l'albero con la zappa e sarà lì sotto l'albero a prendersi fresco. Già acceso qua, chiama dopo, va. C'è qualche sopravvissuto al caldo? L'apparecchio mezzo sordo e non si sente per quello, Maria. Non è solo Maria. Poc'anzi non sentiva nemmeno a me. Dopo tanto non sono riuscito a farmi capire. Deve essere sordo quell'apparecchio. Ma che mi ti sta chiamando Marino? Non mi sento, Bacchi, sento la sorda, ma non azione, un po' da chiare, c'è un po' di preparazione. Ciao Giulio, gigante, nulla. Avanti Giovanni, buonasera, è entrato anche l'amico Giulio. Avanti Giovanni. Un attimo, stai rientrando subito. Sì. Avanti Giulio, buonasera. Avanti per cosa devo chiaro. Avanti Bacchi, ma non sta salendo la campagna? Sta ancora aspetto Bacchi, già t'ascolto, avanti. Bacchisio, sto chiaro Bacchisio. Eccomi qua Mari. Sono una cosa sicuramente. Mi arriva il sanzione di 7, poc'anzi una bella pulita, ma sanzione gigante. Bacchi, ti sta chiamando Marino, lo senti? Non ti sente perché c'è nemmeno segnale, Marie. Ok, io qui non sono d'accordo, fra 6 e 7 come segnale. Segnale 6 o 7 più o meno. La relazione è una bella pulita, ma ogni tanto sparisce perché c'è la preparazione. Avanti, Giovanni. Io ci sento bene. È Bacchiccio che è un po', c'ha l'apparato un po' sordo, capito? Per cui non sente, allora è per quello. Bacchi, mettiti un'altra antenna, perché quell'antenna non fa bene. Io ti sento bene, Bacchi, ti sento abbastanza bene, sei tu che lo nascosti, avanti. Lui ti sente, Bacchi, si sente bene anche, sei tu che lo senti a lui. Ha giù ragione che è sordo con l'apparecchio. Guarda, lo stasera di sette adesso ci è arrivato, sette è pulito, Una bella manovrazione, ma se lo ascolti non lo so, avanti. Ma Giovanni, guarda, sta salendo la campagna per caso. È in campagna, deve essere in campagna, perlomeno. Ma in campagna sì, ma ce l'ha avuto di salendo, sai? E adesso non so se è buono, ma chi? No, ti sento, no, Marino. E deve essere in movimento, non ti sente. Vabbè, sta scendendo, bene, bene. C'è stato un amico che ha salutato, avanti se c'è ancora, e forse non ascolto, bene. E l'amicatore, Giovanni, ha terminato i lavori, sì? Com'è? L'amicatore, i lavori, ha terminato? Ma Ottore non l'ho sentito per niente io, Ma poco fa chi era, Giulio o Ottore quello lì? Mi è sembrato Giulio, se non mi sbaglio, ma sicuramente sta facendo una cosa, non può entrare, già entrerà più tardi. E Ettore sta pulendo bene il carrello, capito? Si sta preparando il carrello della barca, capito? L'impianto elettrico, deve essere già fatto per quello. Vediamo un po' se c'è Giulio. Sì, sì. Sicuramente l'ho impastato, già salutato e si è portato. Gigante! Caro Bacchiglio, adesso si è arrivato anche più forte. Vediamo un po' se ti ha sentito Marino. È stato modulato, l'ho sentito in questo passaggio, Giovanni, è stato modulato, perché c'era, ripeto, c'era molta preparazione, l'ascolto, ma poc'anzi è chiaro, una bella modulazione, ma stava lì, ma ascolta. Mi accorgi adesso, ma chi? Niente da fare, io sono basso a basso, non ascolta, Giovanni. L'apri può bisogna metterci qua con l'apparecchio, perché è sordo. Ma chi mettici l'amplifon e deve essere arrivato a garage, dai, deve, forse sta mettendo in garage la macchina, adesso Marino. Ok, dai, mi porto due minuti dopo rientro, Giovanni, dai. Chiamate pure, già acceso. Ok. Ore. Gigante, Giovanni. Dimmi. Non ho entrato da qui, no? No, non mi ho rientrato. Stavo mettendo la macchina in garage, però penso che sia arrivata a casa sua adesso. Sì, allora si sta togliendo il tipo di ottavo, dai, sono qui. Sì, adesso non ascolto, senti, dai. Dai, si entra già lo stesso, dai. Già acceso. Ok. Hola Marino. Buonasera, dottor Marino. No, io non ti ho sentito un pezzo, poi non ti sento più. È sordo, mi sembra sia un po' sordo. Non stavo guardando, avanti. Non in questo passaggio, non lo so che cosa si è aumentato. Sì, da 9 a 9,25. E allora già va bene, va. Ok, c'è Giovanni, ascolta, avanti Giovanni, la buonasera. Ok, ciao, ciao, signor Bacchiglio, buonasera, ben risentito. Infatti è sordo con l'apparecchio Bacchi. Io ti sentivo, ma tu non sentivi a me. È sordo, bisogna andare all'amplifon e li mettiamo l'amplifon e vedrai che dopo sente. Ok, ma Bacchi, è una bella innovazione, è bella pulita, limpida. Stanziamo la 6:30 al momento, hai capito? Solo tu mi sentivi, boh, non lo so, no, non ti sentivo. Non so che si deve tremorella. Ma tremorella stasera la radio. Boh, io l'ho sentito quando ero il fornitore e poi si è sparito, non si sente più. Boh, strano, non lo so. Io ti sentivo bene, però ovviamente c'è un po' di preparazione, sono più potente e sparisci tutto qua. Bene, avanti Giovanni. Ma infatti, io lo sentivo sempre bene. Lo sentivo sempre bene anche da campagna. Solo che lui non sentiva a me. E infatti deve essere mezzo sordo, se no mi avrebbe sentito a me pure. Invece stavo scolando, chiamando, niente a fare, non mi rispondeva, dopo mi ha risposto, evidentemente non ci so dire nemmeno perché mi ha sentito. Se scende il segnale da chi è? No, ma stavo uscendo, so che sei sceso a 8:30, da 9:15, capito? Tutto più avanti. Sceso sono. Ma sei salito? Stavo dentro quel limite lì, non possiamo andare oltre, se no guaio. Sei in quel limite che ti ho detto. Ho capito. Già va bene, dai, avanti. Fai stretta qua. Va bene, per chi? Va benissimo. A voglia. Avanti. Ci ho fatto una volta. Andate, buonasera a tutti. Andiamo bene, andiamo. Certo, chi è basso, chi è alto, chi è medio. E già siamo tutti rimattessi. Una cosa che sto passando, tu dici, stavi vicinando, dimenticando il carrello, così è, bebù. Sì, ho messo a posto le luci, ho messo a posto, adesso è tutto a posto. Ma la revisione di fare? Sì, il 24 di ottobre. Già ci vuole ottobre. Novembre, ottobre, va bene, dai. Avanti, da chi? Maria, salutiamo il signor Squalo, buonasera, signor Squalo. Sono squalato, sì. Aspetta un attimo, Bacchi, che mi sta chiamando con la signora. Sì, la signora non disturbare quando sei al baracco. Poi lui, avanti, dove? Lascialo andare, se no dopo lo sguida. E per cui ci deve andare a fare anche lui. Bene, vera. Lei ce l'ha, Bacchi si è messo a posto tutto ed è tranquilla adesso. A ottobre, fra 2 mesi, si fa la revisione, dopo può andare anche a mare con la barca. Ma la revisione poi ci viene tutto, o no? Come? La revisione poi ci viene tutto. Tutto ciò vi avrei fatto. Certo. A ottobre comincia a fare freddo, così che lui va all'inferno a mare. A pezzo di balena, andrà avanti, va qui. Adesso, non ho la revisione. Forse fanno anche revisione a lui, perché non deve essere fuori fase, non lo so. Adesso vediamo un po' cosa dice. Sono ancora impegnato, e così è. Forse andrà a pezzo di balena a ottobre. Conviene a ottobre, una volta fatta la revisione, bene su tutto, intanto, guarda, conviene. O lo usi il carrello o domone, se usano meglio, non conviene perché si insotto. Perché fra situazione, altre spese, e si insotto. Tutto qui. Avanti, domani. Anche la revisione bisogna fare. Cazzo, dopo la revisione deve scendere giù, se non sbaglio, alla motorizzazione, prima deve fare la revisione e dopo fa coso alla motorizzazione e li fanno il collaudo, penso io, penso che sia così. Cosa, Gianmarì? No, è così. La revisione solo devo fare, basta, solo la revisione. Si provano i freni e le luci. Ah, così è. Allora, se la motorizzazione si è tutta a posto, allora? Sì, devo cambiare e metterla un po', verniciarla un po', se le parti sono arrugginite, e mettere i mozzi nuovi, cavi nuovi, e poi devo portarla che freni e che accendano le luci, sia stop, frecce e luci di posizione. E allora ce l'ha a fare ancora, cioè. Sai un sacco di cose da fare. E cazzo, adesso anche da controllare i freni così. Penso che le ganasce siano ancora buone, no? Ho i mozzi nuovi, manco trattati, poi si arriva la revisione del 2003 e poi non l'ha più trattati. Quindi sono nuovi, trattati una di... Allora sei a posto, dai. Fai quelle cose che devi fare, quelle piccole cose, per cui piano piano te le fai, dai. Poi a quel periodo vai e ti fai la revisione. Ma anche se è rugginoso, la revisione passa, l'importante è che hanno perfetti le luci e le gomme e i freni, no? Sì, ma lo vogliono vedere che sia un po' andabile, poi devo arrivare tutto arrugginito, no, è che ci lega il numero del telaio, ecco cos'è, infatti io lo metto un po' a posto, che le do una piccola verniciata e basta, aggiusto, faccio vedere gli ammortizzatori che sono quasi nuovi, se posso vedere, che devo verniciare i molli e basta, no, il viaggio di mamma a pentarmi. Lo puoi fare anche zingato, no, la verniciatura gliela fai a zingo, no? Sì, di quella vernice a zingo gliela faccio. E allora fai in fretta. Bene, riprende Maria. Sì, riprendo e vi saluto, perché mi nipote mi sta chiamando. Bene, ciao, domani ben sentito, la domani se coincide, sono Iden, Bacchise Iden, se coincide domani, se no ci vediamo. Bene, Bacchise, riprendi e faccio quello che io, va? Ciao Marino, salutissimi, saluto al correa familiare e tutto è cambiato. Se coincide ce la vediamo domani, se no ce la sentiamo. Bene, bene, ciao ancora, avanti Gio Marino. Ok, ciao Marino, sentiamo Sono passato, ma questa volta non ti ho visto sotto l'albero con la zappa, ma vuol dire che eri dall'altra parte e prendendoti fresco. Ciao Marino, sentiamo. Vai tu. Sì, ciao Marino.